Noi siamo orgogliosi anche della nostra governance, della capacità di portare il testimone di quell'ethos, i primi genitori, quindi della nostra missione, dei valori fondanti dell'associazione, che col testimone ci siamo passati in quasi 40 anni di attività. Per cui, per primi, abbiamo cercato di capire come rendere l'associazione democratica, inclusiva anche nei suoi meccanismi interni. Più del 50% dei consiglieri che compongono l'organo direttivo dell'associazione sono genitori o familiari e un'altra componente importante è quella dei volontari, volontari con una grande esperienza e una grande formazione in agio. Noi siamo molto contenti di avere 19 persone assunte con un contratto di lavoro dipendente perché crediamo fermamente che queste persone siano un investimento per l'associazione e non un costo come molti ritengono. E poi 14 contratti a biologi, psicologhe, medici, ricercatori. Questo ci fa anche investire molto nella formazione sia del personale che anche dei volontari, perché per qualificare il tempo e l'impegno dei volontari è importante dare loro una formazione attinente sia al loro servizio che anche alla comunicazione, l'evoluzione sociale e tutto il resto. La formazione è sempre indirizzata al sapere, al saper fare e al saper essere, che è ovviamente quello più difficile, che mette insieme tutta quella consapevolezza che è data dall'esperienza e dalla formazione. Abbiamo ovviamente investito anche sulla formazione del personale medico, 62.891 euro investiti, 62.016 euro per la formazione professionale e scientifica. Poi c'è il rapporto con servizio pubblico e questo non è stato sempre facile, nel senso che molte volte noi ci siamo sentiti come Cassandra, prevedere delle cose e non essere ascoltati. È chiaro che noi abbiamo un filo diretto con i pazienti e con i loro bisogni, con la loro sensibilità, ma anche con quelle che sono le necessità degli operatori, quindi il tempo che serve per la cura, la necessità degli spazi per la cura e perché la cura sia veramente cura alla persona e non soltanto un trattamento della malattia. Questo molte volte si scontra e si è scontrato con ovviamente delle logiche economiche, politiche, secondo noi meno lungimiranti o anche dei vincoli che le pubbliche amministrazioni hanno nel gestire queste situazioni, però per noi è stato sempre importante rimanere all'interno della struttura pubblica. Pensiamo che solo all'interno della struttura pubblica e insieme alla struttura pubblica possa costruire la cura delle persone e la sanità umana del futuro che noi vogliamo e personalizzare, che noi vogliamo portare avanti. Dall'analisi che noi abbiamo fatto di questo report si evince una certa nostra timidezza nel approcciarci alle istituzioni e nel proporci come coprogettatori di visioni future, sempre con quella paura di camminare un po' in un terreno minato e di essere visti come dei soggetti ingombranti, come delle spine nel fianco, invece che come un aiuto propositivo. Credo che noi si debba rivendicare questo ruolo, sapendo che non siamo medici, non siamo amministratori, ma che possiamo portare il nostro punto di vista con pari dignità. E questo soprattutto per le battaglie sui diritti. i diritti dei minori e i diritti del minore in ospedale, il diritto alla cura, all'accesso alle cure, tutti temi che per noi sono fondamentali e che fanno parte dei nostri obiettivi dei prossimi 5 anni, vanno rivendicati con forza, con orgoglio e con una grande propositività, perché credo che anche le amministrazioni pubbliche debbano imparare a sfruttare, tra virgolette, l'esperienza e la capacità progettuale e di visione delle associazioni del terzo settore.